saluto della Confederazione Cobas e di tutti i bresciani che sono venuti in 43, così al volo. Ieri abbiamo fatto un pullman, lo abbiamo messo su lì per lì all'improvviso, perché questa lotta è una lotta che ormai sta diventando una lotta veramente di tutti e tutte, tutti gli sfruttati, tutti coloro che si sentono calpestati, vilipesi, violentati da una violenza di Stato che vuole imporre modelli di sviluppo che sono totalmente negatori di quella che è la salute, di quella che è la libertà, di quello che è il diritto all'ambiente salubre delle popolazioni. Nello stesso tempo io, è la terza volta che vengo qui in queste ultime tre settimane, ed è la terza volta che vengo travolto, sommerso, vengo veramente felicemente sconquassato da una partecipazione popolare entusiasta, ed è qui che dovrebbero venire a guardare i vari Ciccio Bello Rutelli che ieri hanno voluto dire che loro comunque, anche se la polizia è cattiva, però loro comunque sono dalla parte del sì alla TAV. Ebbene, compagni e compagni, in questa strada, vedete quanti siamo, in questi campi, in queste montagne, e lungo quella strada avete visto quelle barricate, chiudono la strada.